Buonasera, benvenuti. Anche questa sera non c'è nessuno, siamo soli e abbandonati. Vi ringrazio di essere così numerosi. È un'ennesima serata, grande serata, Sacro Fest. Questa sera si parlerà di coraggio e in effetti per uno come me che non sono un professionista del palco, anch'io ho bisogno di un po' di coraggio per presentare un personaggio del calibro di quello di questa sera. La persona infatti che è qua questa sera, quando si ha queste persone così importanti, i rischi sono molti. O si rischia lodi enormi come fanno scherzosamente, non so se vedete o sentite qualche volta un giorno da pecora, il simpatico Lauro e la simpatica Geppi, qualsiasi ospite hanno è sempre il più bravo del mondo, il psichiatra più bravo del mondo, il politico più bravo di tutti i tempi, il giornalista più famoso di sempre. Ecco, quindi un rischio è questo. L'altro rischio è quello di banalizzare, dire le solite cose retoriche che non interessano a nessuno, o ancora, altro rischio ancora, di raccontare la storia della persona e magari l'ultimo lavoro che ha scritto. Questa sera io nel presentarlo niente di tutto ciò. Voglio solo manifestare un po' la mia... Ah, avete notato che finora non ho fatto il nome. Non ho fatto il nome perché voglio tenere un po' in suspense. Potrebbe anche essere che è cambiato programma e fra un po' salta fuori Sonnacchioso Marzullo, per dire. No, si scherza ovviamente, se no mi arriva una querela dal buon Gigi. No, sappiamo benissimo che c'è stasera. Comunque dicevo, l'unica cosa che voglio trasmettervi è un po' la grossa emozione che ho nel presentare questa persona, sia perché io mi trovo d'accordo su il 100% delle cose che dice, ma questo di per sé conta poco, potrebbe anche essere, non lo credo, ma potrebbe anche essere che siamo d'accordo io, lui e le 3-4 persone che lo seguono. Ma c'è una cosa invece che è solo degli grandi, è la cosa che un relatore così non ti lascia indifferente, o ti prendi in ogni caso. Puoi essere d'accordo, non puoi essere d'accordo, puoi contestarlo, ma sicuramente non dice mai cose banali, dice sempre spunti diversi, ti fa capire punti di vista diversi. Faccio solo un esempio che non c'entra niente con questa sera, ma così, fatalità deve essere destino. 3 sere fa, vedendo una replica dell'Aria che tira, ho sentito un suo ultimo intervento. Si parlava dei giovani che non trovano lavoro e che sono rassegnati e nemmeno lo cercano più. Tutti parlavano di questi poveri giovani e l'ospite che abbiamo questa sera ha avuto la solita toccata, cito a memoria, quindi il professore mi perdonerà se sbaglio, ma gli disse: c'è ancora una cosa più grave della rassegnazione dei giovani, ed è siamo noi adulti che siamo rassegnati e disposti a farli da baglia e da INPS perennemente, per dire. Non tutti ci pensano, per dire. Ecco, detto questo, non voglio prolungarmi nel portare via tempo all'ospite. Dico solo un'ultima cosa, sapete che serate di questo livello chiaramente hanno anche un costo, come dico anche nelle sere scorse, ho detto più volte, ci date una mano se uscendo con generosità, magari mettete qualcosa nelle cassette che troverete. Dico questo, se la serata vi sarà piaciuta, e non ho dubbio che sarà così, siate generosi. Se per pura ipotesi scolastica, ma non è realizzabile, non vi sarà piaciuta, siate lo stesso generosi, che l'anno prossimo porteremo proprio l'ospite che piace a voi. Signori e signori, è con grossa emozione che presento il professor Paolo Crepè. Grazie. Cedo il microfono e buona serata. Buonasera, ecco qua, come va, bene? Allora, io devo parlare di, beh, devo dire la verità, non è che mi piace molto parlare delle cose che scrivo, perché penso che quando uno le ha scritte, basta, quello che doveva dire l'ha detto, però in questo caso, come altre volte mi è successo, perché sapete, la fabbrica di un libro funziona che ad un certo punto o che mi viene in mente spontaneamente o perché l'editore comincia a farti delle telefonate sempre più pressanti che ti dicono allora che vorrebbe il titolo, vorrebbe la roba, eccetera. E quindi devi cominciare a pensare di che cosa parlare. Io ho scritto 25-26 libri, quindi un po' di argomenti li ho affrontati, probabilmente li ho anche un po' esauriti. 2 anni e mezzo, 3 anni fa, ho cominciato a pensare. Poi, quando viene in mente una parola, un titolo, un argomento, poi almeno per me funziona così, non so gli altri scrittori, funziona che diventa una specie di ossessione, per cui comincia a vedere il mondo attraverso quella cosa là. E quando mi è venuto in mente tecnologie digitali, già avevo delle idee, ma poi mi sono messo a guardare. E quando comincio a guardare con attenzione, guardare ovunque sto parlando, al ristorante, in un treno, in un qualsiasi posto, cominci a vedere delle cose che in questo caso sono drammatiche, però fanno anche tanto ridere, sono veramente umoristiche. Mi ricordo una volta che ero sul mio paesino dove io mi ritiro a scrivere, era la mattina di domenica, mi alzo, era anche abbastanza prestino la mattina, mi alzo a fare 2 passi e su un vicolo sento un uomo, la voce di un uomo che fa scalino, un po', buca. Si vede che stanno venendo davanti degli ipovedenti, ho pensato io, no? Quindi mi metto in parte per far passare queste. Sono venuti, c'erano 2 ragazzini, figli di questo signore molto sventurato evidentemente, che andavano in giro con l'iPad, che non guardavano. E quindi il padre doveva fare, no, il cicerone, sperando che, però io penso che siano già morti questi 2, perché un po' li salvi, ma no per tanto, perché se passi poi arriva una strada, arriva il tir, non c'hai più i figli, rimane l'iPad. E allora un po' ti viene da ridere, no? E poi un po' ci pensi e dici, ma questa è una disgrazia. Non siamo mica messi bene. Treviso. Io giro molto il paese, per cui i miei racconti sono sempre un po' racconti di viaggio. Anche se è anche a fiera qua. Cosa vendono? Cocomeri? Ma andiamo bene qua. No, perché io non ho niente di scritto. No, se voi sapete che fa la rifa, aspettiamo che il vincitore e dopo. Vabbè, allora, Treviso. Mi scrive il sindaco qua, voi sapete che da una certa età in su capita che ti chiamino a fare le inaugurazioni. Da giovane non mi hanno fatto inaugurare niente. Adesso che si vede che il capello bianco è rassicura, dice vengo perché adesso abbiamo un asilo, una scuola materna, se venisse lei sarebbe una bella giovane. Adesso, vabbè. Arrivo 3:30 del pomeriggio, cosa doveva essere 4:30. Io come anche stasera arrivo con i treni, roba, boom boom boom boom, e alla fine salto il pranzo, la cena, quello che è. E c'è il sindaco che mi aspetta alla stazione e dico guardi, abbia pazienza, siccome proprio ho un buco nello stomaco, se andando alla scuola ci fermiamo in un bar mi fa una cortesia. Scherza adesso. Bar meglio della città, dico no, anche al secondo, ho detto però va bene come vuole lei, guardi. E mi porta su questo bar bellissimo, gelateria, pasticceria, bar, tutto marmo, una meraviglia. Sono lì sul banco che giro il mio cappuccino e l'occhio mi parte e vedo che c'è una mensola di cristallo, lunga, un paio di metri, e sopra iPad, 3, 4, 5, con la cosa antitaccheggio. E dico, ma che strano, dell'iPad in un bar, che normalmente uno va lì, prende il caffè, al massimo fa una chiacchiera col barista, ma non è che sta lì mezz'ora, no? Quindi il bar, o prendi un gelato, vai via, o prendi un pasticcino, vai via, cioè è un posto di passaggio, non di... Mi chiedevo come mai, dopo neanche che avevo neanche finito il cappuccino, che mi arriva la risposta. Entrano dei genitori, lì vicino c'era una scuola materna, quindi bambini grandi così, bimbi, davanti a questa mensola ci sono degli sgabelli dove il papà o la mamma si siedono, tirano fuori i loro smartphone, cominciano a chattare loro, e il bambino seduto sulle ginocchia comincia a fare, non sanno camminare ma sanno usare un iPad. Ok? Io nella mia vita ho imparato a fare una cosa e credo di saperla fare bene. Gli faccio molte domande dovunque io sono, con chiunque, in treno. È una cosa che mi piace, è una cosa che mi ha sempre dato soddisfazione, perché ti raccontano quelli che vogliono, naturalmente, quelli che non ti mandano a remengo, però normalmente se sei cortese qualche risposta te la danno. E ti raccontano pezzi di vita, e tutte le vite sono interessanti. Le vite delle persone molto importanti, così come le vite dei posteggiatori abusivi, sono uguali. Sono tutte molto interessanti. Bene, io da alcuni anni lavoro con un signore che io ho sempre ammirato nella mia vita, perché è un uomo che è straordinario, si chiama Renzo Piano, è un architetto abbastanza noto, forse uno dei migliori architetti al mondo. E alcuni anni fa mi chiama, dice che doveva fare una scuola, voleva che io facessi da consulente, insomma è venuto fuori una bella amicizia. Voi potete pensare, per la cosa che vi ho appena detto, che se io vado a pranzo con Renzo Piano non faccio domande, per me è impossibile. Anche a costo di sfinirlo, ma io faccio domande, boom, boom, boom, boom. E soprattutto con le persone tipo lui, mi interessa all'inizio sapere cosa faceva lui da bambino. Perché quando fate una domanda del genere, ottenete delle risposte che vi dicono chi è quella persona, perché noi siamo quello che siamo stati da bambini. Dice moltissimo di noi, di carattere, di bene. E quindi gli chiedevo cosa facevi, dove eri. San Pier d'Arena, quartiere occidentale della città di Genova, sul mare. No, dentro, sai, San Pier d'Arena è un quartiere operaio. Casermoni, primi Novecento, alti, tanti piani, dentro. Tu eri, non eri sul mare? No, io ero 4-5 file dentro, quindi non lo vedevi il mare, ma che niente. Però lo sentivo quando veniva la brezza, sentivo l'odore. Cosa facevi quando finivi i compiti? Quando andavi a giocare a pallone in parrocchia? No, quelle robe là non mai fatte. Quindi andavo su, in cima al condominio. E cosa c'era in cima al condominio? Una terrazza dove le donne mettono a stendere i panni. E cosa ci facevi lassù? Mi guarda, come dire, che domanda stupida. Ovvio, guardavo l'infinito. Ok? Allora, Renzo Piano guardava l'infinito da bambino. Il bambino di Treviso guarda a 30 centimetri. Chi è più mona? No, ridete tutti, se ridete tutti, come mai a Natale avete regalato tutta sta roba? Se è così ovvio quello che sto dicendo, ed è ovvio, ovvio, no? Perché Renzo Piano, guardando l'infinito, che cosa diventa? Un cacciatore di orizzonti. Uno che non si accontenta mai, c'ha 78 anni, se volete fare la vita che fa lui, vi spacca. Perché io non ce la faccio, e ne faccio, Non ce la faccio. Oggi a Sydney, domani a New York, poi va a Parigi, poi prende un treno la sera, va a Genova. Cacciatore di orizzonti, mai contento. Sempre cose nuove, sempre a sfidarsi. Quella cosa lì non è che ti viene dopo che sei laureato. Quella è una cosa che è un esercizio primario, se ti è possibile farlo. Ma se c'è un deficiente di adulto che ti mette una roba a 30 centimetri e ti dice che quello è il tuo mondo, dove vuoi andare? Quella è la tua cantina. E quello devi fare. E cosa devi fare? Niente. Zoom, zoom, zoom, zoom. Quanti sensi utilizzi con l'iPad? Dai, forza, quanti? Oh, neanche il tatto, perché lo puoi fare anche con una, si chiama pencil, lo puoi fare anche con una matita tecnologica, quindi non c'hai bisogno neanche dei polpastrelli. Non usi la vista, perché 30 centimetri, la vista, sarà mica quella la vista. La natura ce l'ha data per guardare. Ecco, tu pensa se Colombo avesse avuto un iPad. No, Google Map. Ma dove sei, sta India qua? Ma pensa quanto saremmo rimbecilliti, se la tecnologia fosse nata 400 anni fa. Saremmo tutti seduti, grassi, fermi, come le oche di Strasburgo, inchiodate sul pavimento, senza curiosità, perché c'è tutto lì. E quando c'hai tutto non desideri più nulla, no? Se una roba ti dà tutto, tu perché devi desiderare? C'hai tutto? Sì o no? Oh, dico cose complicate? No. Allora, vogliamo che i nostri figli non desiderino nulla? Guarda che siete cattivi, Augurare questo a un bambino, che tu non desideri mai nulla nella vita, cosa devi avere? Un prêt-à-porter? Ma cos'è l'esistenza? Un vestito di H&M? Ma stiamo scherzando? Ma l'esistenza è un vestito di Valentino, una cosa meravigliosa fatta su di te, a modo tuo, con la testa tua, perché abbiamo qualcosa qua sopra, gli occhi, sì o no? O questa roba qua serve solo per far copia e incolla? Ma ragioniamo o no? Io non sono un antitecnologico, ho un telefonino qua. Non sono un antitecnologico, figurati. Anzi, non lo sono mai stato. Io ho cominciato, mi ricordo, prima metà degli anni Ottanta, mi ricordo, c'era un Commodore. Qualche anzianotto si ricorderà cos'era un Commodore. Era un computerino che se lo guardi adesso sembra, non so io cosa, un trattore. Poi ho comprato il primo Mac SE, il primo gioiello della Apple, primo grande realizzazione di quel geniaccio che ha inventato la Apple. Mi ricordo, era bellissimo, lo accendevi, ci metteva un po' come i televisori a valvole e poi si faceva hello. A me piaceva sta roba qua. Ma che dicevo, ma guarda che educati che sono. No? Questi americani ti fanno una cosa che dice hello, come fa a sapere che sono io davanti? E ci ho messo un po' per capire che poi c'era qualche altro milione di imbecille come me che pensavano di essere salutati dal signor Steve. Bene. E avanti, avanti, avanti. Vedete? Questa è una cosa importante. A metà degli anni 80, 85, 86, c'è stata una grande, meravigliosa battaglia commerciale tra un gigante, che era l'IBM, una cosa enorme, e dall'altra parte questa piccola aziendina di qualità che si chiamava Apple. In realtà non c'era molta competizione, era quasi, però c'è stata una cosa. Dall'altra parte l'IBM inventa uno slogan pubblicitario geniale, genialissimo, eh? Una parola. Think. Pensa. Porca miseria. Mica male, eh? Cioè, tu guardi una roba e c'è uno che ti dice pensa. Vuol dire io che la guardo che posso pensare, giusto? Se mi dice pensa, vuol dire che sono in grado di pensare. Quindi sono libero. Sono libero. Questo qua mi sta dicendo che sono libero. Beh, mica poco. Sì o no? Dopo qualche settimana, l'altro, Apple, che è sempre stato un pochino più creativo, fa un'altra pubblicità con due parole. Think different. Mica male, eh? Pensa, ma diverso. E poi, per essere ben compreso, mette tutta una serie di belle facce, eh? Martin Luther King, Gandhi, Picasso, Einstein, erano i miei idoli. Non ce n'era uno, non potevo scartarne neanche uno di questi. Era la mia mondo, mi spiego, di giovane che pensava che questo rappresentasse che cosa? Il mondo della libertà, della creatività, dell'intelligenza, non mancava niente, dai, c'era anche Maria Callas. Quindi, geniale, un'altra volta. Cosa stava succedendo? Stava succedendo che il mondo che stava entrando nel mondo della tecnologia entrava da una porta di grande ottimismo, di grande generosità. Si stava creando qualche cosa che dal punto di vista commerciale è stato straordinario, che era come dire, se tu aderisci a questo mondo, io ti do un senso di appartenenza, siamo noi. E questo è al di fuori delle razze, delle religioni, dei quartieri del mondo, siamo noi. Era una speranza pazzesca. E questo che cosa si traduceva? In che cosa si traduceva dal punto di vista commerciale? Che tu compravi non tanto l'oggetto, il computer, che a quel punto lì era una roba banale. Compravi qualche cosa che era di più, metaforico. E questo che cosa crea in te? Un pregiudizio positivo. Di modo che da quel giorno in avanti, e ci siamo ancora adesso, ogni volta che uno nomina tecnologia, in automatico noi pensiamo ad una cosa positiva. Se io fossi venuto qua e avessi una diapositiva da mettere qua, signori e signori, adesso vi faccio vedere in anteprima il nuovo iPhone. Non è che c'era qualcuno che diceva basta con gli iPhone, non ne posso più. Voglio non so, fare una passeggiata. No, non lo dice nessuno. Perché? Perché tutti dicono, vediamo cos'è. No? Non è mai successo che uno vende l'iPhone 7 invece che quello 6 perché è un millimetro di più sottile. Ma chi è che lo sente un millimetro di sottile? Ecco, sarebbe come se uno, se la Fiat vendesse una Panda degli anni 60, no? Oggi, dicendo guarda che sì, sembra quella degli anni 60, però se vedi la porta già un centimetro di meno, allora. Perché questa è la tecnologia, è sempre la stessa roba. È sempre la stessa roba. Più o meno sempre la stessa roba da molti anni. Solo che ogni volta fai bravo, e tu dici, ma va? Oddio, ci sono 5.000 pixel in più! Ma chi se ne accorge che la fotografia della nipotina c'ha 5.000 pixel? Ma che li conti? Ma scusate, ma c'è qualcuno che conta i pixel? E tu compri una roba che costa 1.000 euro, neanche, non sarebbero i 2 milioni vecchie lire, no? Perché c'ha 5.000 pixel in più, cioè pensa te, e siamo tutti contenti. Dici, hai comprato una roba, c'è i margini sfondati, tutti tondi. Ah, ma va? Ma che meraviglia. Bene, e così è entrato dentro tutto. E sono entrati dentro inizialmente una cosa, regina, meravigliosa, che è internet. Che noi mettiamo insieme a quello che c'è adesso. Ma internet è una cosa molto diversa dai social network. Internet è la più grande rivoluzione mai fatta nell'umanità. Permette ad un ragazzino in mezzo all'Africa di accedere ad una lezione ad Oxford. La puoi vedere, te la guardi in streaming, fantastico. Sì o no? Meraviglioso. I social sono un'altra cosa e sono fatti per fare un'altra cosa, si chiamano social, cioè associano, no? Internet è una cosa molto individuale, te la puoi anche guardare in cima a una baita, basta che prenda, non hai bisogno di essere in due. I social minimo. L'altro giorno, lunedì, una mamma è venuta a raccontarmi di questa ragazza che ha 14 anni, che ha una ragazza, una ragazzina, per varie questioni di non brillantezza a scuola, diciamo così, e qualche altra cosa, si decide a casa sua di togliergli il telefonino e lui lascia la ragazza. E la mamma dice, ma cosa c'entra? Dice, perché se io non posso mandargli WhatsApp, è bene che questo rapporto sia finito. E lei gli ha detto, ma guarda che c'è il telefono, falle una telefonata. Io ti ho tolto solo il telefonino, però c'è quello col filo. Dice, no, quello no. Quello no. Voi sapete che non si telefona più. Perché? Perché la voce è un'emozione. E se tu non sei più abituato alle emozioni, non le sopporti più le emozioni. Domandatevi come mai preferiamo mandare un WhatsApp o un SMS invece che fare una telefonata. Perché metti che telefoni a Barbara, magari per una questione di lavoro, e gli devi fare una domanda. Barbara, come va? E qui dice, beh, insomma, adesso mi tocca star qua a domandare, sempre con tuo marito, la suocera, sempre... No, mezz'ora al telefono, facciamo una roba. Ciao tesoro, come va? Chi se ne frega, no? Di come va, ci vediamo, mi mandi quella mail entro le 18:45, 3 secondi, passa la paura, meraviglioso, o no? Ma cosa c'è di più bello? È istantaneo, ti risponde subito, no? Non devi fargli una domanda sul marito, la suocera, i nipoti, la roba, la sciatica, per carità. No, andiamo al sodo. Anzi, facciamo una cosa, diventiamo disumani. Che facciamo prima? WhatsApp. 6:30 la mattina, 7, treno da Brescia a Milano. Era d'inverno. Io entro in treno, guardo sempre dove, no, c'è un posto dove magari riesce a fare un'altra mezz'oretta di pisolino. Era un sacco di ragazzi, ho detto meglio qua, no? C'erano due di una certa, ho detto metto lì che magari anche loro, tum! E allora c'avevo in parte una signora e davanti un signore. E ho detto, magnifico. Metto sul capotto, stavo per che il signore tira fuori un telefonino e fa alla signora: ascolta, perché parlano così, no? Ascolta, le ho scritto alle 6:12, le è arrivato alle 6:14, e ancora non mi ha risposto. Oh Madonna, ho detto, perché ho capito che non finiva mica lì, che questa signora, signorina, non so chi fosse, dall'altra parte, e questa qua cercava delle scuse, no, sarà sotto la doccia, e dopo 10 minuti sta doccia non andava più bene, no, dopo porta i bambini a scuola. Siamo arrivati a Milano, verso Milano, gli ho detto: senta, io ho una certa età, le devo dire una cosa, mi spiace dovergliela dire, ma tra lei e questa signora è finita. Perché lo ha deciso WhatsApp alle 6:12. Perché prima parte il baffettino grigio, e dopo il secondo baffettino grigio, e se dopo diventano azzurri, e questa disgraziata non ti cosa succede? È la fine di un amore, no? È ovvio. Cosa dovevi aspettare? No? È già così, è finita. O no? L'altro giorno, qualche tempo fa, dicevo quest'inverno a mio amico, che è un grande scrittore, che è Niccolò Manniti, non so se avete, simpaticissimo, molto smanettone, molto. Io ho detto: Niccolò, c'è una bella notizia per te. Dice, cioè, che adesso hanno fatto gli smartphone che sono impermeabili. Dice, sì, lo so, e quindi? Dico, quindi se c'è una che ti manda un WhatsApp che tu sei sotto la doccia, tesoro, bisogna che rispondi. Perché hanno pensato anche quella. Cioè, se tu sei sotto la doccia, sulla destra lo shampoo e sulla sinistra lo smartphone. Perché non puoi essere libero. Non siamo più liberi. E come mai a luna eri ancora sveglio? Che sei su WhatsApp, no? E via con gli avvocati, i divorzi. Ma tu pensa a te, avevamo conquistato la libertà, stavamo così bene a farci ognuno gli affari propri, che arriva qualcuno dalla California che ti dice: baffettino, doppio baffettino, e stai fermo. Instagram, altro colpo di genio. Allora, quando ero giovane, io che ho anche lavorato con qualcuno di questi grandi fotografi. I grandi fotografi cos'erano? Forse 150. Adesso ce ne sono 4 miliardi, quasi 5. Cioè tutti voi, più tutto il resto del mondo. Ma questo non sarebbe niente. E che questo produce delle cose assolutamente straordinarie. Tipo che alle 8 di mattina ti arriva una foto di un cappuccino. Un cappuccino che Nadia ti manda, ma non è che ti manda il suo importantissimo, strategico, fondamentale cappuccino, ma pretende anche che tu alle 8:01, ma non di più, scriva di risposta qualcosa di intelligente. Perché tu devi commentare il cammuccino di questa deficiente totale che sta al bar, e il barista, siccome gli fa il filo, gli ha fatto la crema col cuoricino. E ne vogliamo parlare, siete obbligati. Siete obbligati a occuparvi del cuoricino della signorina Nadia, che ha inondato il mondo con sto cavolo di cappuccino, e noi dobbiamo stare lì a pensare, a perdere il nostro preziosissimo tempo, perché questo ti invade quando sei al gabinetto, quando sei in un taxi, quando sei in un qualsiasi posto, arriva Nadia con i soliti cappuccini. Ma siete liberi? No. No. Assolutamente no. C'era, mi ricordo, una signora, che non mi ricordo, non so neanche come avesse avuto il mio telefono, perché basta, niente, fotografava i piedi nudi per far vedere il colore delle unghie. Capite? La profondità. Cioè lei la mattina si pitturava, faceva una foto immortalando il fettone orrendo, tra l'altro, no, che aveva una pianta così che gnaga, non so, da badilate, no, e dopo diceva, mi ricordo anche una volta, Chanel color fango, dico, morra, che roba meravigliosa, meno male che la mattina mi è cominciata così, no, pensa che giornata fortunata, che tu ti alzi vedi l'unghia color fango della signora tal dei tali, lo capite? Il narcisismo, l'egocentrismo, la totale mancanza di sensibilità, di rispetto nei confronti degli altri. Ormai siamo invasi e ognuno può invadere qualsiasi cosa. Allora, abbiamo detto, 5 sensi non servono più. Attenzione, chi nasce senza sensi cosa diventa da adulto? Pensate, riflettete. Autistico, te lo dico io, autistico. Perché un bambino autistico è un bambino che è depotenziato nei 6 sensi, no? Cioè, ovvero nelle sue relazioni. Cosa sono i sensi? Relazioni, sì o no? Perché se un ragazzino, no, non può pensare neanche di sentire la voce della sua cosiddetta fidanzata, figurati baciarla. Gli viene un infarto, no? Quindi come si fa? Tutto virtuale. Tanti genitori mi dicono, ma guardi, anche meglio così, così non prendo le malattie. Dico, guardi, sicuro, con una chat difficile. Penso, adesso poi, no, malattie fisiche, mentali, tantissime, ma quelle virali meno. Quindi, poi manca il desiderio. Poi la curiosità, poi la creatività, non lo dico io, C'è una tendenza nella nostra età della rete a pensare che le idee possono essere sviluppate attraverso una mail o una chat. Ma è una follia. La creatività nasce da incontri spontanei, da discussioni casuali. Tu incontri qualcuno, chiedi cosa sta facendo e dici wow, e immediatamente stai cucinando una nuova idea. Steve Jobs, perché era uno degli intelligenti. Quando gli hanno chiesto di tutto sto grattacielo qua della Google, qual è la parte più creativa? Gli hanno chiesto a Steve Jobs. E lui ha detto, il pian terreno. Perché? Perché c'è la caffetteria. Pensateci, è vero? Tu vai a prendere un caffè, no? Vedi una ragazza, cosa fai? Non ti ho mai visto, come ti chiami? Lavori qui? Ah sì, da 6 mesi. Cosa fai? Fai questo. Ah, interessante. Cioè, fai 2 o 3 domande in più. E dici, wow, brava sta qua. Non ci avevo mai pensato. Adesso torno su e ci penso io. Che cos'è la creatività? È contaminazione. È contaminazione. Alone man is nothing. Da solo l'uomo non è nulla. Nessuno da solo ha fatto niente. Niente. Picasso da solo non ha fatto niente. Se non avesse avuto quell'amico che l'ha portato un bel giorno a casa di un signore che collezionava cose africane, e se lui per la prima volta nella sua vita non avesse visto una serie di maschere africane bellissime, non sarebbe nato il cubismo. Lui faceva realismo, periodo blu, molto classico. Poi vedi una donna scolpita, divisa in 4, torni a casa e dici, quasi quasi la divido in sei. Come viene una donna divisa in sei? Nasce il cubismo, no? È la contaminazione. È bellissima questa cosa qua. Vuol dire che siamo virali l'uno con l'altro, se ci siamo. Ma come diceva Steve, bisogna avere un contatto. Non puoi pensare che questo funzioni anche virtualmente. Non funziona, non funziona, punto, non funziona. Quindi, senza creatività, siete sicuri di volere un mondo senza creatività? La creatività non è solo diventare un pittore, o un musicista jazz. No, la creatività vuol dire che quando te la vedi brutta nella vita, pensi che ci sia una soluzione, anzi due, forse tre, anzi, già che ci penso, cinque. E ti salvi la pelle. Questa è la creatività. Al suo massimo livello. E noi ci siamo salvati la pelle perché siamo stati più creativi dei mammut. Perché se no avrebbero vinto loro e non noi. È semplice, no? E allora per i vostri figli cosa volete? Creatività, io credo, no? Se voi gli date tutto ai figli, loro come faranno a essere creativi? Quindi non bisogna dare tutto. Sapete quante volte sono venuti a sedersi davanti a me nello studio? L'incipit è così. Guardi, io a mio figlio non gli ho mai fatto mancare niente. Malissimo. Peggio di così? Ma sei un mostro. Sei una roba incredibile. Come fai a permetterti una cosa del genere? È cattiveria allo stato puro. Non far mancare niente. E che cosa inventerà uno a cui non manca niente? Ma questo diventa come la figlia della Hilton. Come si chiama quella la Hilton? No. Paris Hilton, che cammina a quattro zampe, ubriaca, fuori da una discoteca. Ma volete i figli così? O la cugina di Lamborghini. Avete mai visto la cugina di Lamborghini? Meno male che il nonno è morto. Quello geniale della Lamborghini. Questa ha 18 Lamborghini in garage, non sa neanche quante sono. Perché poverino non è capace di neanche di contare. Volete un figlio così? Mona totale. È il nostro obiettivo, è la stella polare. Sì, l'importante è che stiano qui. Che non vadano in giro. Una volta mi ricordo a Vicenza, al liceo scientifico, ultimo anno, c'era una ragazza che mi si è avvicinata, dice, io l'ho ascoltata, io la penso un po' come lei. Dico, bene, siamo in due. E quindi? Voglio quest'estate andare via con una mia amica in giro per l'Europa con un treno. Brava. E allora? Ma io ho detto a mia mamma, e lei cosa ti ha detto? In giro per l'Europa, fa la mamma. Ma perché a casa non stai bene? Pensa avere una mamma così. Guardate, è molto meglio essere orfani. Ma no, non ridete. Un genitore è un capitano, è uno che non ti mette il piombo sulle ali, ti fa volare. Ma avete paura che i vostri figli volino? Ma non vi vergognate? Ma scusate, sta a casa, anzi sta in cantina, ti compra la Berkel, così ti tagli la soppressa. Massimo della vita, no, tagliate sta soppressa, sta a rompere i coglioni. Mamma mia, ma siete, ma io non lo so, ma scusate, ma io trovo una roba tremenda. Siccome questo lo pensate anche voi, c'è in questa sala, lo dico, perché lo so che c'è in questa sala. Perché io da queste parti sono andato miliardi di volte, a parte che ci vengo, ci sono anche nato da queste parti. Quindi saprò qualcosa, no? Se no è la soppressa che sei che me lo diceva. So, ho studiato la soppressa. O no? Bene. Quindi uccidiamo anche il merito, già che ci siamo. No, pensate quanti assassini che stiamo facendo, andiamo avanti. Cahier de doléances, Il merito, certo, perché cosa serve il merito? Niente. Se c'hai già tutto, perché devo studiare? Se c'ho già. Se poi c'ho già e non ho ambizioni, pensa all'altra cosa, non ho ambizioni. Perché come fai a cuocere le tue ambizioni? Pensando che ci sia qualche cosa che è meglio di quello che hai, un luogo più interessante di dove sei, una persona più intelligente di te, sì o no? Ma se tu pensi che tutto questo non possa essere possibile, perché io c'ho già il massimo, perché io dal mio smartphone piuttosto che dal mio iPad scarico quello che voglio, mi sono anche iscritto a Netflix, e mi vedo il mio filmetto, giusto? Ma cosa hai bisogno di più? Forlì, anche lì, ultimo anno del liceo, faccio una domanda difficile: cosa fate quest'estate? Silenzio, perché ho detto sì, no, ve la dico anche più piano perché capisco che l'impatto sia forte. Che cosa pensate di fare quest'estate? Senti un rumore e capisci che è il cervello che va in on. E questo già è interessante questo, no? Si alza una ragazzetta, capopopolo, e fa: noi andiamo a Rimini. Da Forlì fino a Rimini. Oh, mamma mia, ma siete sicuri? Ma come affrontate questa avventura? Ma sono cose tremende. Ma andate come Annibale, mandando gli elefanti davanti, immagino io. No? Perché c'è il periglio, capite? Il periglio. Sul Rubicone. Non capiscono perché, sapete, nella scuola è stata abolita qualsiasi forma di intelligenza e quindi anche l'ironia ha fatto una brutta fine. Quindi sono tutti molto seri nelle scuole italiane. Dico, è un'alternativa? Si rialza, fa tipo, è tipo, amore mio, è tipo che ti do una notizia, non sei più romagnola, non sei neanche più italiana. Si è allargato, sei europea, c'è scritto anche sul tuo passaporto, se hai 18 anni c'è già scritto comunità europea, vattela a vedere. Lì ho sbagliato, perché ho detto, ma perché non andate a Praga? Silenzio. Avessi detto Alaska sarebbe stato più semplice. Si rialza la capopopolo e dice: ma scusi, ma che differenza fa? Mamma mia! Li abbiamo rovinati. Capite cosa vuol dire? Io vado a Rimini, c'ho tutto. Cosa devo andare a Praga? Vuoi che vada a Praga? Aspetta un attimo. Google Earth, Praga, piove, va bene? 18 gradi. Hai bisogno di qualche altra roba? Vuoi sapere come si chiama la birra che si fa a Praga? Aspetta un attimo, birra Praga, eccola qua. Hai bisogno d'altro, tesoro? Basta, no, vuoi che vada fino a Praga? Ma stai scherzando? Io vado in discoteca? No, che è il luogo più avanti del mondo. Mi fumo un po' di roba, poi mi faccio 3 o 4 tiri, no? 7 spritz per cominciare e qualche vodka per continuare, siamo a posto, perché lì i genitori non dicono niente. Quando ti arrivano le 7 di mattina, che sono ciucchi come un soldato dopo la guerra, non dicono niente. Capite che non dicono niente e dicono qualcosa se tu vai a Praga. Quindi dove vai a Praga? Che donne mas alte! Qua che sei più docili o no? Capite dove è andata a finire la nostra intelligenza? Ma io penso che anche questa sia un problema, perché le tecnologie digitali, e questo è un altro grande problema, non sono un problema per i ragazzi, perché anche il nonno li usa, li usano tutti. Quindi, primo problema di questa cosa qua. Tutte le regole educative sono basate sulla coerenza, giusto? Se mio papà ai miei tempi mi avesse detto torna a mezzanotte, non a mezzanotte e mezza, e io tornavo a mezzanotte e mezza per vedere cosa succedeva, va bene? Lui era presente in casa e alterato. Questo era quello che succedeva, giusto? Se io fossi tornato a mezzanotte e mezza e mio padre fosse tornato alle 5 ubriaco, poteva dirmi non tornare dopo mezzanotte e mezza? Sì o no? No. Allora, come fa una mamma a dire non stare 8 ore sul telefonino quando la mamma ce ne sta 9? Domanda. Risposta, forza! L'altro giorno è venuto un ragazzo, 16-17 anni, con la mamma, perché questo è sempre qua sul telefonino. No, dopo un quarto d'ora ho visto che quello c'aveva gli occhi per aria, a un certo punto non ne ha potuto più, gli ho detto, senti, gli ha detto alla madre, tu chatti dal cesso a mezzanotte, cosa mi parli? Avete perso l'autorevolezza in un secondo. In un secondo, perché quella mamma lì al massimo può essere un'amica del figlio. Il massimo che può fare nella vita, che è già una cosa perniciosa, essere amici dei figli, è una delle cose più vomitevoli che io abbia sentito negli ultimi 20 anni. No? Io sono la migliore amica di mia figlia, ma io non lo so, pensa in che mondo siamo. I nonni fanno i genitori fanno gli amici dei figli, i figli non sanno più cosa fare. Tu pensa a te, per mettere un po' di buon senso che il nonno faccia il nonno, il papà fa il papà e il figlio fa il figlio. Pensa, è complicato anche questo, il nonno fa il nonno, che al massimo ti dà uno strappo con la panda per andare a basket, se è sulla via dell'osteria, perché se no neanche quello, sì o no? Punto, basta, la nonna, crostate le nonne, ferme lì, state ferme che siete perniciose, siete di un pericolo enorme, le nonne sono una cosa terribile, perché le nonne negli anni 60 erano genitori, giusto? Inflessibili, struttura acciaio inox, era gente che ti dà una sberla preventiva. Sì o no? Bastava niente, un stormir di fronde, che non uscivi più. Sì o no? Perché erano di marmo. Sì o no? Queste stesse persone sono diventate nonne oggi, e quando la mamma che ha messo Valentina sotto punizione perché non fa questo, non fa quell'altro, e gli toglie, quelle poche mamme che hanno ancora dei neuroni sopra la testa, gli tolgono il telefonino, arriva la nonna perché la mamma va a lavorare e dice, amore, cosa è successo? Ti ha tolto il telefonino, te lo dago a me? E se quello del nonno? Dai! Perché le nonne, io penso, che credono di andare in paradiso uccidendo i nipoti. Penso che sia questo che si sia diffuso questa credenza. Io credo che sì, perché sennò non capisci come mai una nonna sia così cattiva. Perché è del tutto evidente che se una ragazza è in sottopunizione tu devi stare zitta e allineata a quello che fanno i genitori. Perché è del tutto evidente che una ragazza a 15-16 anni c'ha già 2 genitori e sono anche troppi, e avere anche altri 4 nonni diventa impossibile. Chi è che comanda? Perché noi siamo capitani. Quello che vuole un ragazzo è un capitano, non vuole papà, mamma, nonna, zia, vuole soprattutto un capitano. E cosa fa il capitano? Dà delle regole, è sicuro di quello che fa, non ha sensi di colpa, ma che se siete in mezzo al mare e il capitano vede che arriva il brutto, il Mar Rubio, come si dice a Venezia, arriva quella roba brutta, cosa fa? Un referendum. Chiama anche il cuoco da sotto, si senta, secondo lei, come la vede lei qua? ci buttiamo a sinistra o a destra? E il cuoco dice, sto qua, ha preso la patente nautica col CEPU. È il minimo. No, quindi naufragio. Perché uno che ha preso la patente nautica col CEPU va addosso agli scogli? Sì o no? O no? O avete bisogno di un uomo che dice si fa così? Sai perché? Perché ho fatto 100.000 tempeste. E io lo so, tu stai zitto, stai giù. E tu stai giù e sei sereno, perché c'è chi comanda, che sa. Non è autoritarismo, è autorevolezza. E questa parola l'abbiamo tolta da scuola, l'abbiamo tolta dalla famiglia, l'abbiamo tolta dappertutto. Risultato, un'educazione liquida, orribile, maleodorante, di adulti che non hanno niente, invertebrati. Io quando ero più giovane, adesso mi capita, ormai siamo tutti cresciuti, ma quando ero più giovane mi invitavano a cena, io domandavo l'età del bimbo o bimba, e se mi dicevano che aveva 7-8 anni, più o meno quell'età lì, io inventavo una scusa. Dicevo, ah sì, grazie, però proprio adesso mi è venuto un mal di testa terribile. Insomma, non andavo. Perché? Perché non cenavi. Perché questi 1,08 metri, che io chiamo il piccolo Buddha, perché sono stati fatti tardivi, giusto? La mamma già 38-39 anni, quindi fa quel figlio e basta, potrebbe chiamarlo ultimo, è così, e lui comanda, buccetta così. C'ha il telecomando, quindi voi volete vedere? No. È lui che comanda. E i genitori... il mantra tutti i giorni, no? Per cui quello che dice è oro. Si mangia quello che vuole lui. Una volta viene da me una signora, i primi di maggio, e mi fa... Ah, ho trovato un posto finalmente in un villaggio turistico in Sardegna. Andiamo qua. Ah, dico, bene, bel colpo, dico, signora, contenta? No. Dice, come mai non è contenta? Dice, perché io odio i villaggi turistici. Dico, però le piacerà la Sardegna? La detesto. Mi piacciono le Dolomiti. E dico, scusi, perché ha fatto questo? Per far piacere a lui. Ah, dico, suo marito. Ma va, mio marito. A lui. Buddha. Capito? Voi vi siete mai domandati come mai vanno tutti a Gardaland? Anche gente con i capelli bianchi. Perché c'è Buddha. Perché se Buddha dice al papà ormai canuto... buttati dallo scivolo di 35 metri. E il papà dice, e si buttano. Li ho visti io, si buttano. È incredibile. Quindi questi bambini crescono pensando una cosa straordinaria, molto geniale dal punto di vista didattico, che loro tutto possono pretendere e nulla fare. Mamma 40-50enne, avvocato, separata, figlia, 13 anni. Torna a casa alle 7, stanca come poche altre volte. Arriva a casa, dice alla figlia, allora io preparo qualcosa per cena e tu apparecchi. Risposta, io non sono la tua serva. Cosa fate? Certo. Cosa fate? Se questi sono cresciuti come Buddha, è ovvio che a 13 anni dici questo, ma a 16 fai di peggio. Papà, figliolo, mamma, seduti nelle mie tre poltrone davanti a me. La mamma agitata, papà depresso, guardava a punta delle scarpe. il giovanotto attualmente sconnesso. Guardava così. A voi non vengono mai quel prurito, le falangi? No, eh? A me sì, molto spesso. Poi mi trattengo perché non è giusto interferire sull'educazione. Bene, dico, chi è che parla qua dei tre? E la signora dice, parlo io. Dico, meglio, perché se aspettiamo sti qua, facciamo Natale. Dico, prego signora. Dice, il problema è sto qua. Dico, seriamente, credo che anche quell'altro, però concentriamoci su quello che è attualmente non pervenuto. Dico, prego, cosa fa? Dice, questo fa l'istituto tecnico, ma sai, da quest'anno mi ha detto che va in sabbatico. Ah, dico, guarda, la ringrazio perché non avevo mai saputo che si potesse andare così giovani in sabbatico. Però è una cosa bellissima, la ringrazio, bene, arrivederci. Come arrivederci? Il problema è questo, cioè noi non sappiamo cosa fare. Dico, me lo domanda a me? Dice, sì, me lo domanda a lei, siamo venuti qua. Dico, allora guardi, se lo domanda a me la risposta è facilissima, voi non dovete fare niente. Capito? Labiale, niente. Cioè? Niente, lui non fa niente per sé e lei non faccia niente per lui, no? E cosa vuol dire? Lei ha capito, ma glielo dico. Niente internet, niente telefonino, niente uscite, niente motorino, niente. La Costituzione ci chiede di tenerli in vita, giusto? Sì o no? Ho riso in bianco. Ora mica metterci anche il parmigiano? Costa il parmigiano o no? O c'è scritto sulla Costituzione italiana che ci vuole anche il parmigiano stagionato 24 mesi? Oh, ma se uno non fa niente, io non faccio niente per lui. Ma è così complicato? Si chiama legge della reciprocità. Io sono venuto qua, puntuale, che ero dietro, all'appuntamento, voi siete venuti qua all'appuntamento, non è che ognuno è venuto quando gli voleva, sì o no? Si chiama reciprocità, perché se no non si fanno le cose. E perché un ragazzino sì? Perché quello era un piccolo Buddha cresciuto, ormai in età in cui diventa molto difficile tornare indietro. Non fatevi troppe illusioni, cari genitori, o si dissoda la terra subito. Oh, per carità, qua siete dentro una comunità molto religiosa, io non sono molto religioso, quindi i miracoli faccio fatica. Ma se uno ha 29 anni non sa far niente, a casa mia a 30 non sa far niente. Perché io di conversioni sulla via di Damasco ne ho viste poche. Scusate, ma è la mia professione che parla. E non illudetevi che col tempo si migliora, il tempo peggiora, non migliora. E allora quando un bambino ha 8 anni gli si tira via il telecomando, si mangia quello che c'è e non decide lui, perché un bambino meno decide e meglio sta. Ma scusate, ma voi quando eravate bambini decidevate voi dove andare in vacanza? Io mi ricordo il primo agosto di quando ero, mio papà aveva Giulia, 1003, e si partiva il primo agosto, papà, mamma, io e mio fratello. Io che ero quello più attivo, mio fratello era più timido, dopo un po', perché non si sapeva dove si andava, e io mi azzardavo e chiedevo, no, a papà, per carità, alla mamma, dove stiamo andando? E lei si girava e diceva, Tasi non sta a vomitare. Questa era la democrazia che vigeva a casa mia. Ma io mi sentivo fiero di avere un capitano che non mi chiedeva permesso, che sapeva lui se andavamo a Cesenatico o sulle Alpi. Cosa ne dovevo sapere io a 8 anni? Dov'è Cesenatico, dove sono le Alpi, se era meglio andare su o giù. Ma scusate, ma perché abbiamo rovesciato il mondo? A vantaggio di chi? Nostro, perché facciamo meno fatica. Il mio grande maestro di quando ero ragazzo che faceva un po' di sport, che era un grande velista, mi piaceva andare a vela. Diceva una cosa meravigliosa quando l'hanno intervistato poco prima che morisse. Questo ha fatto tutto, 16 anni ha vinto le Olimpiadi, Coppa America, Giro del Mondo in solitaria, non so se avete un'idea che cosa vuol dire fare il Giro del Mondo in solitaria, ci vuole un certo coraggio, diciamo, chiamiamolo coraggio. Bene. E alla fine questa giornalista gli ha detto, ma lei che ha visto il mondo in tutte le sue parti, in tutti i suoi colori, in tutte le sue albe, tramonti, tempeste, bonacce, che cosa le ha insegnato la vita? E lui, che era un genio, i geni si riconoscono subito perché parlano molto semplice. Quando incontrate uno che parla difficile, cita tanto, è un imbecille. Io penso che sia così. Bene, lui era un genio. E lui ci ha pensato un secondo e ha detto, che cosa mi ha insegnato la vita? Che tutto quello che è comodo è stupido. Scrivetelo nella camera da letto dei vostri figli. E già che ci siete, scrivetelo anche nella vostra. Funziona così. Tutto quello che è comodo è molto stupido. Scegli l'università perché quella più vicina a casa è stupida. Scegli le tue passioni, difficilissime, scomodissime. Funziona anche in amore, lo devo dire. Gli amori belli sono tutti difficili. Quelli facili, i prêt-à-porter, ti annoi, ti annoi. Una ragazza a Mantova, mi ricordo, carina, ultimo anno al liceo, gli dico,